24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra e bentrovati a questo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano un'ampia pagina di economia e finanza col Fondo Monetario che rivede al ribasso le stime dell'Italia, le reazioni della borsa e le preoccupazioni di Angela Merkel. L'Italia il prossimo anno crescerà ancora meno del previsto, a dirlo è il Fondo Monetario Internazionale che ha tagliato nuovamente le proprie stime. Nell'ultima bozza del World Economic Outlook indica per l'Italia una crescita del PIL dello 0,8%, mentre per il 2012 si aspetta che il PIL avanzi dello 0,5%, non più quindi dello 0,7%. E una netta sforbiciata la subisce la Germania con una crescita del 2011 che secondo il Fondo Monetario non raggiungerà più il 3,2%, ma si fermerà al 2,8%. Restano invariate invece le stime per la Francia. Per l'Eurozona non c'è il rischio di entrare in una recessione, rassicura il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker. Andiamo ora in Germania. L'euro è il garant eines einigen Europas. L'euro è il garante dell'Europa e se fallisce l'euro fallisce anche l'Europa, lancia questo avvertimento Angela Merkel. In un discorso alla Bundestag la cancelliera ha definito questo indebitamento dell'Europa come il risultato di decenni di una filosofia sbagliata. Su questo Oscar Giannino ha intervistato in 9 in punto Tobias Pill, corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung in Italia. Certamente l'euro non ha avuto solo amici in Germania. L'euro dall'inizio era una scommessa da quelli che erano più filo europei a dire abbiate fiducia negli altri partner, abbiate fiducia anche nell'Italia e vale la pena lasciare perdere al marco e fare una scommessa europea. Poi in parte questo euro è stato anche una imposizione francese che dicevano accetteremo l'unificazione tedesca se voi abbandonate il marco, così vi lasciate comandare anche gli altri, soprattutto i francesi, sulla moneta europea e non lo fate più solo da Francoforte. In questo certamente c'è anche una grande delusione di fronte all'Italia, perché in Germania poi quelli che sono poi i figli europei si rendono conto che se salta l'Italia salta l'euro e se salta l'euro salta l'Europa. E dicono ma l'Italia non avevano fatti 1000 giuramenti che se ne occupavano loro del debito, perché adesso vengono a dire i tedeschi paghino il nostro debito, questo è una grande delusione. E della crisi come dei provvedimenti adottati dai governi ha parlato anche il commissario europeo agli affari economici e monetari. Sentiamo. Il seminario a Bruxelles è dedicato alla crisi della Grecia, ma il commissario europeo per gli affari economici e monetari, Olli Rehn, un riferimento all'Italia lo fa in modo incoraggiante. Le nuove misure annunciate dal governo italiano, ha detto Rehn, rispondono alle sollecitazioni giunte da Bruxelles sul fronte del risanamento dei conti pubblici e dello stimolo alla crescita e contribuiscono a rafforzare la fiducia sull'economia italiana in un momento difficile, ha concluso il commissario. Poco prima il suo portavoce, Amadeo Altafagi, sempre riferendosi agli ultimi provvedimenti adottati dal governo italiano, aveva parlato di sollievo da parte della Commissione europea alla notizia del ritocco dell'aliquota IVA perché, ha precisato Altafagi, consente senza dubbio una valutazione degli introiti più precisa rispetto alla lotta all'evasione fiscale. Quest'ultimo punto, aggiunto il portavoce di Olli Rehn, resta comunque un importante elemento della manovra, specie per una questione di equità sociale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia il Senato ha dato il suo via libera alla manovra che ora è da 54,2 miliardi. Palazzo Madama ha votato ieri sera la fiducia sul testo rivisto più volte per arrivare al pareggio di bilancio nel 2013. Il testo dovrebbe essere varato definitivamente sabato. Quanto ai mercati, dopo i tonfi delle ultime sedute è stata una giornata di forti rialzi, tutte positive le piazze europee, Francoforte e Milano le migliori a più 4, Parigi chiude a più 3,63%, Londra a più 3,14%. Ad incidere sui mercati anche il verdetto della Corte tedesca sul fondo salva stati, Alessandro Merli del Sole 24 Ore. Credo che i mercati finanziari abbiano tirato un sospiro di sollievo anche per la decisione della Corte Costituzionale tedesca che ha dato il via libera in sostanza alla partecipazione della Germania e i salvataggi degli stati dell'Eurozona. Il sospiro di sollievo lo ha tirato anche il governo del cancelliere Angela Merkel, perché questo dovrebbe facilitare l'approvazione a fine mese da parte del Parlamento tedesco dell'ampliamento delle risorse e del mandato del Fondo Salva Stati Europeo, l'IFSF. L'approvazione è messa in dubbio dal fatto che c'è un'opposizione da parte di una maggioranza all'interno della maggioranza che sostiene proprio la signora Merkel. La Corte però ha detto anche un'altra cosa, che la sua sentenza non è un assegno in bianco per future operazioni di salvataggio agli stati dell'Eurozona in difficoltà, e ha posto come precisa condizione che ogni operazione sia sottoposta al voto della Commissione Bilancio al Parlamento Europeo, e questo fa sorgere il timore che ogni intervento di urgenza possa essere poi rallentato o reso più difficile dalla procedura parlamentare tedesca. L'altra cosa che la signora Merkel ha detto, soddisfatta della pronuncia della Corte, ma ha ribadito anche il suo no all'emissione di Eurobond, cioè il debito comune dei paesi dell'Eurozona, che come sappiamo è sostenuto sia dall'Italia che da numerosi economisti come possibile soluzione della crisi del debito europeo. E questo è il racconto della seduta di Piazza Affari. Chiusura con il botto per le borse europee, che hanno iniziato a scommettere sulle manovre di sostegno all'economia da parte sia delle autorità americane che di quelle europee. In particolare c'è grande attesa per la riunione della Banca Centrale Europea, nonché per il discorso che pronuncerà il presidente Barack Obama per spiegare il piano da circa 300 miliardi di dollari a sostegno dell'occupazione. Milano ha vantato la performance migliore, con il FTSE MIB il rialzo del 4,2%. Hanno rialzato la testa le Fiat più 8%, le Fiat Industrial più 5%. Sono state gettonate le banche e le assicurazioni, con Unicredit in progresso del 4,97%, Banco Popolare del 6,9% e Banca MPS del 5,78%. Pirelli inoltre è volata del 7,3% e Saipem del 7,1%. Sono invece andate male le Campari, meno 1,7%, risentendo del giudizio negativo di una banca d'affari. I titoli comunque sono tra i pochi che da inizio anno vantano un saldo positivo. Hanno fatto peggio dell'indice anche le Ansaldo STS, più 1,4%, pagando la prospettiva di uscire dall'indice FTSE MIB dal prossimo 19 settembre. I titoli saranno sostituiti da quelli di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che non a caso sono saliti di oltre il 7%. Eleonora Micheli da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Voltiamo pagina. Monito dell'Europa all'Italia: deve arginare gli slogan dei politici contro Rom e immigrati. Sentiamo. Sviluppare le norme penali contro i reati di matrice razzista, così da porre fine al continuo uso di slogan contro immigrati e Rom da parte dei politici. La strigliata all'Italia arriva dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammerberg. L'ultimo rapporto stilato dall'organizzazione di Strasburgo è critico. Quasi nulle le misure adottate negli ultimi 3 anni per garantire il rispetto delle minoranze. Hammerberg aveva visitato il nostro paese a maggio, riscontrando gravi mancanze. Per il commissario, il trattamento riservato a Rom ed immigrati costituisce la cartina al tornasole sull'effettivo rispetto degli standard richiesti dal Consiglio d'Europa ai Paesi membri. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Russia un'intera squadra di hockey è scomparsa nell'incidente aereo successo a Yaroslav, 45 le vittime. L'aereo si è schiantato al decollo e questa è solo l'ultima sciagura sui cieli russi. Una sola persona è sopravvissuta. Un accordo commerciale tra Unione Europea e Autorità Nazionale Palestinese per importare prodotti da Cisgiordania e Striscia di Gaza. La proposta, che di fatto significa il riconoscimento dell'ANP, sarà votata il 26 e 27 settembre a Strasburgo. Barbara D'Amico ha sentito Niccolò Rinaldi, eurodeputato per l'Italia dei Valori, tra i sostenitori della proposta. Si tratta di un accordo alla pari tra due entità sovrane. Questo da un punto di vista politico ha la sua rilevanza, e anche rispetto a quella che sarà l'imminente richiesta da parte palestinese all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del riconoscimento della propria indipendenza.